edizione. Ancora una buona giornata dunque da Anna Migliorati. I giornali sono già qui per dare uno sguardo a quelli che saranno i temi di oggi e già vi dico che l'attenzione è pressoché tutta puntata sul vertice di ieri a Strasburgo, vertice a tre, Francia, Germania, Italia, con Merkel, Sarkozy e Mario Monti. Le immagini che sono sui quotidiani di questa mattina sono essenzialmente di sorrisi tra i tre, di mani giunte con Merkel e Sarkozy che passano la palla in qualche modo a Monti. I titoli molto simili, l'attenzione puntata sull'accordo raggiunto tra i tre, ma cominciamo la carrellata dalla Repubblica. Merkel e Sarkozy, fiducia a Monti. Corriere della Sera. Italia, riforme impressionanti, il Sole 24 Ore, Merkel e Sarkozy a Monti, le riforme italiane sono impressionanti, veto tedesco sugli eurobond, Merkel, Sarkozy, sostegno a Monti, per il Messaggero, La Stampa, Merkel e Sarkozy, fiducia in Monti. Insomma, il titolo pressoché uguale per tutti i quotidiani, il tema desta naturalmente grande attenzione con molti commenti. Il Cavaliere assedia il professore, il commento sulla Repubblica, perché la notizia che si accompagna a questo è che c'è già stato però un vertice che in qualche modo frena il governo Monti, che pure ha assicurato riforme in tempi brevi, vertice del Premier con Alfano, Bersani e Casini. I commenti sul Corriere della Sera, l'improbabile direttorio a tre di Massimo Nava, le personalità, i gesti, i luoghi dei vertici hanno un peso politico oltre che simbolico, ma ancora non sufficiente a far ritenere che la crisi europea abbia fatto ieri a Strasburgo straordinari passi avanti nella condivisione delle terapie, ma ancora non è condivisa. E poi taglio centrale del Corriere della Sera, consulto del Premier su nomine e misure con i leader del partito. L'altro fronte, dicevamo quello italiano, il confronto con Alfano, Bersani e Casini. Oggi è previsto alle 9.30 al Consiglio dei Ministri, dovevano essere nominati sottosegretari, ma tutto è rinviato. In Sole 24 Ore, attenzione al Parlamento, il titolo indicativo del punto di Stefano Folli. E poi ancora, in Italia mi chiamano il tedesco, il commento invece sul Messaggero. A fianco a questa un'altra notizia, la leggiamo sul Sole 24 Ore, la trovate sulle prime pagine di tutti i quotidiani. Fornero, la riforma delle pensioni è fatta, ora va accelerata, così ha parlato ieri la ministro del welfare. Sul Messaggero un'altra notizia centropagina che è in evidenza anche poi sugli altri quotidiani, Guarguaglini, lascio solo se me lo chiede il Premier. Altro fronte quello Finmeccanica, convocato CDA di Finmeccanica, ENAV, pugliesi, mai pagato. Così su il Messaggero. Taglio centrale della Repubblica dedicato invece ad una terza notizia, sempre di carattere politico ed economico, che riguarda invece la Fiat, la Fornero. Sentivamo su Sole 24 Ore, ha parlato di pensioni, ha parlato anche di Fiat. La Fornero alla Fiat deve restare in Italia. Ieri ve l'abbiamo raccontato ampiamente anche a prima edizione, è stato l'ultimo giorno di produzione a Termini Imerese, operai disperati hanno ucciso il futuro. La Stampa mette in prima evidenza invece notizie di altro tipo, l'allarme di Roma innanzitutto. All'allarme del sindaco dopo gli ultimi delitti nella capitale, Alemanno che dice sulla capitale le mani di Cosa Nostra. E poi a fianco, sempre sulla Stampa, trattativa Stato-mafia, indagato dell'Utri, accusato dai pentiti, il senatore dice allucinante. Altre curiosità sempre invece dai giornali, anzi veramente più che curiosità, un altro fronte per quanto riguarda la criminalità organizzata sul taglio basso invece della Repubblica, le baby gang dei latinos che terrorizzano il nord. Se a Roma l'allarme sono mafia e nuova banda della Magliana, al nord invece sono le baby gang dei latinos a Genova ma anche a Milano. E poi ve l'abbiamo detto in apertura di prima edizione, se una donna su tre è vittima di violenza, la polemica sempre leggiamo dalla pagina della Repubblica. Oggi è il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E poi ancora la questione egiziana. Dopo la repressione, l'Egitto pronto al voto, i generali chiedono scusa alla piazza, è l'immagine che campeggia questa mattina sulla prima pagina del Corriere della Sera. L'Egitto si prepara al voto mentre i generali, dopo i giorni della repressione, chiedono scusa in piazza Tahrir. Andremo tra poco anche noi con prima edizione. Altra polemica, altra questione aperta, quella delle alluvioni, e anche qui la tiene in grande considerazione il Corriere della Sera. Se anche un pianista è consulente sulle frane, così il titolo della storia raccontata questa mattina del Corriere della Sera. Abbiamo parlato in questi giorni di quel che è successo nel Messinese. L'emergenza, diciamo, di 2 anni fa nel Messinese fu, ricorderete, Giampilieri. Ebbene, per l'alluvione di 2 anni fa, tra i consulenti è arrivato anche un pianista consulente sulle frane. E così questa mattina il Corriere della Sera. E allora anche su questo noi vogliamo tornare a fare il punto per cercare invece di capire cosa succede in queste ore, qual è la situazione e come sta andando. E allora io saluto Laura Bettini. Buongiorno, sì, oggi cominciamo dalla Sardegna per quanto riguarda la cronaca, perché circa 10 chilometri della strada statale tra Villa Cidro e Gonno Sfanadiga nel Medio Campidano, quindi sud della Sardegna, ebbene sono stati chiusi questi 10 chilometri a causa del pericolo per il rischio di cedimento di una diga in seguito alle abbondanti piogge cadute in questi giorni. Questa è la situazione di allerta oggi. In Sicilia invece ieri si è riunita la giunta regionale, stato di calamità per 21 comuni siciliani interessati dalle grandi, dalle forti piogge dei giorni scorsi e dalle frane. C'è il progetto, l'idea di avanzare lo stato, di avanzare la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per le piogge appunto dei giorni scorsi. Quindi adesso lo stato di calamità, prossimamente lo stato di emergenza. Intanto, un mese esatto dall'alluvione in Liguria e Toscana, il ministro Clini è andato a Genova ieri per un incontro con le autorità locali. Un incontro al termine del quale era molto deluso il sindaco di Borghetto Vara, ricorderete, uno dei centri più colpiti dall'alluvione. Si aspettava finanziamenti immediati che invece non ci saranno. Il ministro Clini piuttosto ha avanzato la possibilità che per avere finanziamenti venga creato un nuovo fondo fiscale per interventi di prevenzione ambientale, cioè Clini in sostanza allusa alla possibilità che entrate che derivano dalla fiscalità corrente vadano in un fondo per la prevenzione ambientale. Di questo, ha detto Clini, si parlerà oggi in Consiglio dei Ministri. Mancano i soldi, questa non è una novità per nessuno di noi, ma gli interventi sono necessari e neanche questa è una novità. Potrebbero in qualche modo i privati aiutare a uscire da questa impasse? L'abbiamo chiesto ieri a Cesare Trevisani, vicepresidente di Confindustria per infrastrutture, logistica e mobilità, e questa è stata la sua risposta. Si chiama il contratto di disponibilità, praticamente l'esecutore anticipa i quattrini e gli vengono pagati il ritorno a rate con gli interessi, secondo un piano finanziario stabilito al momento del contratto, sì, sulla base dell'importo e del valore che l'investitore ha fatto. Praticamente l'ente pubblico si rateizza la spesa con le adute garanzie e fiduzioni da parte dell'utente, del pagatore, che col tempo paga il bene che il costruttore ha anticipato con, le sue risorse. È una delle proposte che ha fatto Confindustria insieme ad altri per incrementare le attività nel mercato delle infrastrutture in Italia. Una di queste tante proposte fatte prevede anche il contratto di disponibilità legato ad altre infrastrutture, a dire la verità, ma ripensandoci poteva essere uno strumento anche per i piccoli medi interventi di carattere idrogeologico, sul rischio idrogeologico, sulla messa in sicurezza. Insomma, speriamo di avere dato un'idea agli nostri ascoltatori, magari per fare piccoli interventi. La condizione, ha sottolineato però più volte Trevisani, è che sia un patto tra galantuomini, cioè che poi lo Stato effettivamente mantenga le promesse e risarcisca con queste rate colui che ha fatto, coloro potrebbero essere anche un gruppo, che hanno fatto l'intervento. Anna. Grazie a Laura Bettini, continueremo naturalmente a tenere l'attenzione alta su queste cose. Dicevi poco fa tu, oggi esattamente un mese dall'alluvione nelle Cinque Terre, e noi ci torneremo tra l'altro tra pochissimo. Nel frattempo abbiamo ancora qualche istante prima di riepilogare le notizie di oggi, allora lo dedichiamo alla stampa tedesca questa mattina, perché molto abbiamo detto delle critiche nei giorni scorsi nei confronti dell'Italia per quanto riguarda la gestione della crisi. Ebbene, questa mattina i titoli dei quotidiani tedeschi sono sostanzialmente invece in linea con i quotidiani italiani, vale a dire pieno sostegno a Mario Monti e all'Italia. Uno tra tutti, il sito apriamo di Frankfurter Allgemeine, campeggia qui un'immagine a tre, sono la Merkel, Sarkozy e Monti, tutti e tre vicini e sorridenti, segno appunto, dicevamo, del cambio di passo verso l'Italia. L'apertura è dedicata alla riunione trilaterale a Strasburgo, il titolo insieme contro l'Eurobonds, l'articolo naturalmente punta sul veto tedesco, obbligazioni euro sarebbero il segno sbagliato, questa è la posizione della Germania, ma dicevamo soprattutto le immagini che danno questa mattina anche sulla stampa tedesca un quadro diverso. E allora alle 6:28 minuti, tra poco riepiloghiamo le notizie di oggi, poi ancora approfondimenti e racconto delle notizie di queste prime ore con Prima Edizione. Prima Edizione con gli approfondimenti di Italia in controluce. Italia in controluce. Buona mattina a tutti da Daniele Biacchesi, oggi è il 25 di novembre. La pista da bob e slittino di Cesana Parriolo, quella dei giochi di Torino 2006, tanto per intenderci, sta per essere smantellata. E allora noi abbiamo voluto capire cosa significa con il reportage di Dario Ricci. Sicuramente qualcosa straordinario, adesso non posso credere ancora perché sono ancora un po' in tons, ma qualcosa molto bello, sì. Sicuramente la gara più difficile che nella mia carriera. Era il 12 febbraio del 2006, Armin Zögler aveva appena conquistato sulla pista di Cesana Parriol l'oro olimpico nello slittino ai giochi di Torino. 5 anni e mezzo dopo, quelle 19 curve di ghiaccio costate più di 77 milioni di euro e tenute insieme da 48 tonnellate di ammoniaca rischiano di sparire. Troppo alti i costi di gestione e mantenimento del ghiaccio, scarsi i ricavi, come spiega Riccardo Andreoni, direttore della Parco Olimpico SRL, la società pubblico-privata chiamata a gestire il dopo Olimpiade di Torino. È un impianto che costa da gestire circa 8-900 mila euro l'anno a riposo, e quindi con l'apertura e con l'organizzazione degli eventi sportivi, come è stato lo scorso inverno, ancora di più, e che non rende perché non ha introiti, non ha sponsorizzazioni, non ha biglietteria. Ad aumentare i costi di Cesana anche l'ubicazione della pista orientata a sud, il che rende ancora più difficile e costoso mantenere compatto il ghiaccio. E dire che oltre Alpe, a partire dalla francese La Plagna, l'austriaca Innsbruck, esempi virtuosi di gestione di impianti simili non mancano. Sentite Ivo Ferriani, presidente della Federazione Mondiale del Bob. Un esempio classico per noi è la pista di Innsbruck, dove l'eredità olimpica, della doppia eredità olimpica, permette loro oggi di far lavorare i loro impianti al 100%, anzi organizzeranno adesso le Olimpiadi giovanili a gennaio, e questa è la prova che una buona gestione coordinata e con obiettivi a lungo termine può portare anche questi impianti ad essere sostenibili a livello economico. Progetti alternativi per Cesana? In teoria tanti, in pratica intorno a quella pista si fa una gran fatica a fare gioco di squadra. Ancora Andreoni. Qualora ci fosse un piano concreto, noi l'abbiamo sollecitato molto in questi ultimi mesi anche agli enti locali, al comune di Cesana, queste risposte finora non sono arrivate, non ce la sentiamo più di rinviare, perché a noi mantenere ogni mese di mantenimento dell'ammoniaca, tra la gestione dell'ammoniaca stessa, la gestione dei sistemi di allarme, la gestione della vigilanza, ci costa tra i 25 e 30 mila euro. Non resta che sperare nel freddo, col gelo alle porte, che potrebbe essere prezioso alleato per conservare il ghiaccio e regalare a Cesana un altro inverno di allenamenti e gare, sperando non sia l'ultimo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Era la prima edizione di quest'oggi 25 novembre, condotta da Daniele Biacchesi, il reportage firmato da Dario Ricci. Torniamo oggi alle 13:30 su Radio 24. E con Prima Edizione per una volta facciamo un'eccezione, anche noi questa mattina vogliamo partire facendo un passo indietro. Praticamente stiamo preparando una colonna mobile con 3-4 mezzi, con botticelle da 1000 litri, per portare perlomeno un primo soccorso. Il Mare Grosso non ha proprio permesso che i canali defluissero, sono sfondati i canali, l'acqua ha superato sulle strade, ha allagato tutto, ha chiuso la gente dentro, siamo riusciti a uscire in qualche modo. Ma io ho visto macchine una sopra l'altra, negozi pieni di acqua e dei detriti, tutto fuori, scatole fuori. Guarda, io mi è sembrato proprio l'apocalisse. Tanto, ora il morto è venuto, perché qua si aspettano i morti in Italia. Era un mese fa, esatto, era la mattina del 25 di ottobre a Monterosso, Aulla, Brugnato, le cinque terre colpite dall'alluvione. Una situazione che davvero abbiamo visto troppe volte, complice anche, ma non solo, le bizzarrie meteorologiche in questo autunno. Un mese dopo, oggi che succede? Ieri, lo sentivamo anche poco fa da Laura Bettini, è stato a Genova il ministro dell'Ambiente Corrado Clini per fare il punto sulla situazione post-alluvione con i sindaci dello Spezzino. E allora noi andiamo un mese dopo a Brugnato dal comune di Brugnato. Luca Natale, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi, buongiorno. È passato un mese, ce lo racconta com'è oggi Brugnato? Ma guarda, intanto la prima cosa che è risentire le voci degli amici, dei sindaci, mettono un po' di brividi, ecco. Però ecco, detto questo, Brugnato, come tutta la valle, sta provando a ripartire, è ripartita, complice l'impegno di tutti, dei amministratori, cittadini, volontari, colonne, come sentivamo prima, mobili che, insomma, che stanno ancora lavorando sul territorio, tempo buono, e oggi sarà ricordato anche con una fiaccolata questo primo mese passato. Diamolo, insomma, questo appuntamento, a che ora vi ritroverete? Sì, oggi alle 6:30 a Brugnato, ma anche un'altra fiaccolata a Pignone, insomma in tutta la valle ci sarà questa fiaccolata con le mongolfiere, insomma per ricordare e per ripartire, come abbiamo un po' detto. Progetti nelle scuole, insomma credo che uno spazio di bell'Italia ci sia ancora. Io cerco di vederla positiva, ecco, mettiamola così. Nel frattempo sono anche cambiati i vostri referenti, perché è cambiato il governo. Ieri è stato Clini a Genova, ha incontrato i rappresentanti delle amministrazioni comunali. Che effetto vi ha fatto? Ma noi, insomma, chi sta sul territorio, chi si rimbocca le maniche sul territorio, poi alla fine, come dire, il referente qualche volta rischia di, non dico di essere, non avere neanche la percezione che cambi, però insomma oggi l'importante è continuare a lavorare con il grande impegno che si è sempre profuso nell'ultimo mese, e credo che bisogna andare avanti così per sempre, ecco. Voi a Brugnato siete stati tra l'altro quelli che per primi sono riusciti a riaprire le scuole e a cercare di tornare a una situazione di normalità. Sì. Questa mattina è tutto regolare? Sì, è tutto regolare, e ritorno a dire con tutte le difficoltà, perché oggi le difficoltà ovviamente sono nei collegamenti anche con i paesi vicini, con strade che ancora hanno delle grossissime difficoltà, con le frane che continuano come spauracchio a essere presenti nei boschi, perché poi ricordiamo che il vero problema è stato questa immensa massa di terra che si è riversata dall'alto nei corsi d'acqua, perché ritorniamo, il fiume Vara, che è il fiume più importante, diciamo, nella nostra zona, ha Brugnato, non ha avuto il problema sono stati questi affluenti che sono stati invasi da queste quantità da di fango, massa di fango e legname, ecco. E, sì. E questo un mese fa, adesso, come ci raccontava, si prova a ripartire e oggi ci sarà questa fiaccolata per ricordare quanto è accaduto. Grazie per essere stato con noi ancora una volta. Luca Natale da Brugnato, buona giornata. Grazie a tutti voi, grazie, arrivederci, grazie. Lasciamo le Cinque Terre, magari ci torneremo anche nei prossimi giorni con Prima Edizione. Andiamo invece in Egitto. Sono le 7:43 minuti al Cairo, a Piazza Tahrir. Saluto Ugo Tramballi, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno. Sembra aver retto, ma correggimi se sbaglio, la tregua raggiunta tra manifestanti e forze dell'ordine che per 5 giorni lì si sono affrontati, ma anche nel resto d'Egitto si parla di 34 morti. Però in serata la giunta militare al potere, dopo aver chiesto scusa per le violenze, ha dato l'incarico di formare un nuovo governo e la situazione sembra non essere di nuovo più così tranquilla. Tregua, sono prove di pace, che dobbiamo aspettarci per oggi? Beh, intanto i militari sono, la polizia è scomparsa dalla zona attorno a Piazza Tahrir ed è stata prima sostituita dai militari, i quali poi se ne sono andati anche loro, cioè quindi la piazza non è più circondata come prima da qualsiasi genere di forza, di cosiddetta forza dell'ordine. E poi il primo ministro che è stato nominato per una specie di governo di salvezza nazionale è una specie di carneade, è vero che è stato più di 20 anni fa un primo ministro anche di Mubarak, però è semplicemente un tecnocrate, uno che è abbastanza distante dalla politica, ma comunque una persona dal profilo molto basso, anche perché questo governo di unità nazionale dovrebbe durare molto poco e comunque tutte le autorità più importanti della scena politica oggi dell'Egitto hanno rifiutato di parteciparci. Oggi ci saranno due grandi manifestazioni, è previsto, almeno una dovrebbe essere grande, l'altra forse un po' meno. La prima è ancora, come tutti i venerdì, quella di Piazza Al-Tahrir, quella dei giovani. La seconda è in una piazza non molto distante da Piazza Al-Tahrir, sarà quella a sostegno, diciamo, della cosiddetta maggioranza silenziosa del cosiddetto Egitto per bene, insomma a sostegno dei militari, non dovrebbe esserci in realtà molta gente, ma anche in Piazza Al-Tahrir non ci sarà tantissima gente quanto c'era ai tempi d'oro della rivolta, perché comunque i fratelli musulmani non aderiscono alla protesta dei giovani e quando manca la partecipazione della fratellanza islamica i numeri sono più ridotti. Prima Edizione. Ci aspetta ancora al Cairo il collega del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi. Ugo, le scuse dei militari per gli scontri dei giorni scorsi, la conferma pare comunque per le elezioni che si svolgeranno lunedì e ne parleremo. Tu ci raccontavi questa mattina di una piazza che non è più militarizzata, non sono un po' un forte contrasto con le immagini che invece abbiamo visto nei giorni scorsi con i gas sparati ad altezza d'uomo? Beh, lo sono, certo, ma bisogna dire che la piazza non è mai stata aggressiva. Quello che è successo questa settimana è successo perché la polizia provocava i giovani, attaccava i giovani e i giovani reagivano. Però c'è da dire che la piazza nel frattempo è cambiata, non è più quella che c'era prima. Ci sono anche, per esempio, una cosa sembra paradossale, sono le curve dello stadio. Qua al Cairo ci sono due importanti squadre di calcio e i giovani delle curve di questo stadio sono insieme, unite in piazza, quindi non è più quella è cambiata più la piazza, politica. Insomma, è cambiata notevolmente, ci sono anche i giovani che vengono per fare un po' di trambusto. La piazza è l'unica parte di Egitto oggi che è contraria, per esempio, a tenere le elezioni lunedì, ma la stragrande maggioranza degli egiziani, dell'opinione pubblica egiziana, dei partiti egiziani sono invece favorevoli alle elezioni di lunedì, non tanto perché sia quella di lunedì sia una situazione comunque ideale per andare alle urne, ma perché prima si va a votare, prima si riesce a mettere da parte le forze, la presenza militare nella politica del paese. E comunque sia voltare pagina. Il Cairo, tra l'altro, oggi diventa uno snodo importante non solo per la situazione egiziana, ma come spesso capita anche per altri tasselli dello scacchiere dei paesi arabi, perché entro le 12 di oggi, ora italiana, scade un ultimatum ed è quello lanciato dalla Lega Araba a Damasco per concordare l'invio in Siria della missione di osservatori. Una delegazione siriana dovrebbe arrivare lì al Cairo, che è, appunto, è come sempre un tassello, un nodo cruciale. Su questo fronte, secondo te, che succederà? Non solo qui al Cairo, ci sono anche, nonostante la tensione politica, ci sono anche i rappresentanti di Hamas e dell'autorità palestinese nel tentativo di riconciliare le due anime della Palestina. L'Egitto è sempre stato il centro del Medio Oriente e in questi anni aveva perso la sua autorevolezza, adesso lentamente la sta riguadagnando. Quanto alla Siria, non credo che si riuscirà ad avere una soluzione, dubito che il regime di Bashar Assad permetterà una presenza forte della Lega Araba per cercare di fermare, di bloccare e chiudere la situazione siriana. Sarà un problema che durerà ancora per molto tempo. Quello che è importante è che tutto questo dimostra che anche la Lega Araba finalmente non è più un corpo morto politico, ma comincia ad essere un corpo attivo che si occupa dei suoi problemi, dei suoi reali problemi interni. Prima, di solito, la Lega Araba ignorava le crisi di ogni regime. Oggi invece anche questo è un segno dopo la primavera? In qualche modo? Sì, a parte il fatto che la sede del quartier generale della Lega Araba è proprio qui in piazza Altair, ma questo forse è solo, come dire, una simbolicamente un'agile. Esatto. Però certo, no, la Lega Araba non può ignorare quello che da quasi un anno sta avvenendo nei paesi del mondo arabo. E quindi proprio oggi in piazza Tahrir vedremo da una parte le manifestazioni e dall'altra, appunto, se arriverà a mezzogiorno, entro mezzogiorno in italiana, la delegazione siriana, e quindi davvero occhi puntati sempre più su questa piazza. Ti risentiremo nel corso della giornata, naturalmente, ci racconterai cosa sta succedendo. Nel frattempo, grazie a Ugo Tramballi. Grazie a voi. Sono le 6 e 51 minuti, puntualissimi questa mattina per chiudere le pagine di prima edizione con i nostri approfondimenti di primo mattino per cercare di capire cosa ci aspetterà nella giornata che si apre solo ora, e quindi naturalmente avremo molto di cui parlare con Radio 24. Cominceremo come sempre con le ultime notizie, perché tra poco ci risentiamo con GR24. Nel frattempo, grazie come sempre a Viola Bottoni e Peter Bescapè, e come sempre un buon proseguimento della giornata da Anna Migliorati.